piace il suono di un viaggio che va verso la libertà. Mi piace andare cercando nel blu verso dove si andrà. Strade nuove oggi, domani, sai, sempre in moto, e adesso comincia per noi e per voi questo show. Voglio andare dove vai tu, e al mio fianco ci sei già tu. Eccoci qua, ci siamo ormai, oggi è il giorno e d'ora in poi, metti in moto insieme a noi questo show.